English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Ve lo diciamo subito, abbiamo un problema in questa trasmissione, in questa puntata di English 24, perché vogliamo parlare di quello che è il libro che ha fatto maggiormente scalpore negli Stati Uniti in questo periodo, anche in versione audiolibro. Però il titolo è un po' difficile da tradurre, perché io in inglese lo dico, la parolaccia la dico solo in inglese: Go the fuck to sleep. Come lo possiamo tradurre, Giulia? E vai a dormire, vai a dormire. Ed è un libro che sembra un libro per bambini, ma in realtà è un libro per genitori un po' stanchi, un po' che non ce la fanno più. Ed è un libro che piace molto negli Stati Uniti. Abbiamo scovato un'intervista dell'autore, Adam Mansbach, un'intervista che lui ha concesso alla NBC, e sentiamo come ha spiegato, insomma, cos'è questo libro dal titolo molto particolare. It started with some sleepless nights and a Facebook post where I jokingly said I was going to write. I said, look out for my forthcoming children's book, Go the F to Sleep. Right. And a couple weeks later, actually sat down and wrote it. And the response was what? When people first got wind of this, and once it got online, it went viral. I mean, everybody read about this thing. What kind of response did you get? A lot of thanks from parents around the globe. You know, I feel less alone. This is really cathartic. This is exactly what I go through every night. Un po' deve spiegare di cosa si tratta, perché effettivamente la copertina sembra quella proprio di un libro di favole, molto dolce, molto tenero, ma c'è questa bella parolaccia in mezzo, e ha spiegato come è nato questo libro, Go the F to Sleep. Sì, perché poi appunto anche nella copertina ha questa sorta di censura la parte, che tra l'altro in inglese è appunto the F word, che noi non diciamo la parola con la C, noi la diciamo in generale basta, invece in inglese proprio è la parola con la F, the F word. E dice è nato tutto perché c'erano state delle sleepless nights. Sappiamo che quando aggiungiamo less vuol dire che non c'è quella cosa, quindi sleepless nights sono notti insonni, così come la possiamo aggiungere a qualsiasi cosa, oppure se mettiamo full, tipica cosa è beautiful, che vuol dire bello, ma letteralmente pieno di bellezza. E mi piace perché è nato per caso in maniera divertentissima. Cioè lui ha scritto su Facebook uno status dopo questa sleepless night: preparatevi per il mio prossimo libro, e ha scritto quel titolo. L'hanno preso sul serio? Sì, come se avesse detto adesso la prossima volta, che la prossima cosa che faccio è, quindi, look for my forthcoming book, perché lui è in realtà uno scrittore, quindi è come se avesse detto alla sua comunità di fan o di followers: vabbè, vi do una piccola preview di quello che sarà il mio prossimo libro, look for it, cercatelo, e si chiamerà appunto Go the F to Sleep. E poi in realtà la cosa probabilmente gli è rimasta nella testa, e quindi I sat down and wrote it, quindi mi sono messo lì, letteralmente mi sono seduto, ma quindi vuol dire mi ci sono messo e l'ho scritto. Sì, perché it went viral, che è un'espressione che va molto di moda in rete. È proprio dall'idea di come su internet appunto le cose succedano così, cioè mentre nel mondo reale per fare il passaparola ci vuole molto di più, su internet è un viral, letteralmente da virus, quindi è una cosa, è un contagio. Ecco, il bello della rete è anche questo, che qualsiasi cosa si propaga proprio come un contagio di un virus cattivissimo e velocissimo, o buonissimo e velocissimo, si propaga velocissimamente. Chissà come l'hanno presa i genitori. L'ha chiesto l'intervistatore della NBC a Adam Mansbach. Sì, questi parents around the globe, genitori di tutto il pianeta, che gli hanno detto I feel less alone, mi sento meno solo, è stata un'esperienza catartica, e quello è quello che I go through every night, è quello che succede anche a me tutte le notti, grazie di averlo spiegato in modo anche così, senza mezzi termini, ecco. Allora, ascoltiamo in questo servizio della NBC sempre davvero come l'hanno presa questi genitori americani, perché sono andati proprio gli intervistatori a visitare un asilo e hanno parlato con le mamme e con i papà, dando loro in mano questo volume. Ecco cosa ne pensano. Bedtime. The kids are asleep and parents can finally get their own much needed rest. But for many, nighttime is anything but peaceful. Bedtime is hell. Extremely traumatic. Yeah, you just want them to go to sleep. It's always something. I need a band-aid, I need water, I need one more hug. She feels like when she goes to sleep, we like have a party and watch movies and dance and make music and I don't know what. The excuses may vary, but parents' gut reactions do not. Because even if they're not ready for bed, I am often ready for them to be in bed. This is a children's book. You can totally relate, obviously. It's really funny. The author is definitely showing us that it's okay to joke about our kids, and it's okay to laugh about the hard parts about parenting. It is hard, and I think people don't often talk about that enough. Devo dirti che la voce che mi piace di più è quella di quella signora che ti chiede: ma è davvero un libro per bambini? Si stupisce perché effettivamente ci sono le parolacce, sembra, ma non lo è. E i genitori la prendono molto bene. Sì, perché ci spiegano, insomma, per chi di noi genitore non è, ma magari queste cose le ha sentite. Io per esempio con i miei nipoti questa esperienza l'ho avuta, di cercare di metterli a letto, perché so parents, in questo caso invece magari appunto gli zii o le zie, parents can get their own much needed rest, cioè quando i kids are asleep, quando i bambini si addormentano finalmente, i parents, i genitori, e qui naturalmente un false friend, ma insomma molto conosciuto, parents e genitori e non parenti, parenti e relatives. Quindi quando i genitori sono, quando i bambini sono addormentati, i genitori can get their own much needed rest, possono finalmente avere il loro molto molto necessario riposo. E invece that time is hell, è un inferno, perché? E qui tra l'altro c'è un'espressione molto inglese, e ricorderete forse, insomma, chi di voi ha qualche anno, il gruppo musicale Everything But The Girl, che vuol dire tutto ma non la ragazza. Quindi qui nighttime is anything but peaceful, letteralmente non è niente ma pacifico, cioè è tutto meno che. Perché i bambini cominciano a dire I need water, I need more hugs. Sì, perché magari, insomma, si può immaginare, questo nel libro lo vedete, no? Non è che when she goes to sleep we have a party. In realtà non è così, poi si crolla, perché quando i bambini vanno a dormire poi si crolla, e anche se magari si diceva beh, quando andranno a dormire faremo chissà che, no, non è così. E poi naturalmente the excuses may vary, cioè i bambini poi hanno un sacco di scuse per non andare a dormire. Anche perché if they are not ready for bed, cioè se loro non sono pronti per andare a dormire, la mamma dice io sì però. I'm often ready for them to be in bed, ma io sono pronta perché loro siano a letto. E non si parla di genitori cattivi, perché c'è anche la voce dell'esperta che dice è qualcosa di molto difficile, ed è bello che qualcuno ne parli anche in maniera un po' gioiosa, prendendosi un po' in giro, forse fa anche bene. Quindi naturalmente chissà quante critiche ha ricevuto il titolo di questo libro, ma appunto i genitori più di buon senso dicono it's okay to joke about this, va bene, non c'è problema a scherzare su queste cose, to joke about the hard part about parenting, la parte più dura, più difficile, quella che può esasperare di fatto. E allora quale migliore antidoto, questo vale per tutto forse, del riderci sopra sulle cose difficili e apparentemente quasi insormontabili, appunto riderci, perché it is hard, è molto difficile fare i genitori, soprattutto appunto quando bisogna mettere a letto i bambini. Ed è d'accordo anche Samuel L. Jackson, una voce splendida che ha prestato la sua opera di lettore proprio per l'audiolibro di questo Go the F to Sleep. I was anxious to do the audio read of this book because my agent has twins and he gave me the book, I read it, and I fell out laughing. And I remember all those times when I did read to my daughter when she was that age. And everybody tells you reading stories will put kids to sleep, but it never works. It didn't in my house. Actually, if I picked her up and made up a story, it worked a lot better. But I did say go the fuck to sleep to her a lot. And I think at some point she would look at me when I would come in her room, and she would look at me and say, go to fuck to sleep, daddy. And I'll say, yeah, go to fuck to sleep. Straordinario Samuel L. Jackson, che confessa, è successo anche lui evidentemente qualche anno fa, perché lui parla di una figlia che adesso ci fa capire è un po' più grandina, però quando ha visto questo libro ha detto sì, voglio fare l'audiolibro. Sì, e qui c'è un false friend, perché lui dice I was anxious to audio read this book. Anxious non vuol dire ansioso, ma non vedevo l'ora di, quindi avevo voglia di farlo, to audio read, quindi di fare l'audiolibro, è proprio un verbo, anziché di leggerlo, to audio read the book, perché poi sapete che in America è molto diffusa questa cosa degli audiolibri, ogni libreria ha una sezione di audiolibri, qui da noi succede molto, molto meno spesso. Cosa dice Jackson? Si ricorda di quando la sua bambina era piccola, dice io le leggevo le storie e non funziona mai, o perlomeno non funzionava a casa mia. Sì, e qui tra l'altro avrete notato l'accento di Samuel L. Jackson, che è un po' il tipico accento afroamericano, anche se non fortissimo, però l'avete sentito come dice because e altre, tutte queste inflessioni. E per esempio ci spiega che he fell out laughing, quando ha letto il libro, to fall out laughing vuol dire cadere dalla sedia letteralmente dalle risate, e ci dice, ti dicono sempre che you should read stories to your kids e così loro si addormenteranno. Well, it never works, or at least it didn't in my house. In realtà non funziona mai, o almeno a casa mia non funzionava. Funzionava a lot better, meglio, quando lui si inventava una storia per la bimba, e però effettivamente è un po' più complicato, ma ci racconta di un siparietto molto divertente che proprio succedeva a casa Jackson quando lui aveva una bimba piccola. Lui dice, io mi ricordo di averlo detto molte volte, go the F to sleep a sua figlia. E poi ricorda che forse la figlia, non so, anche perché poi i bambini ci imitano, quindi forse lui lo diceva, a un certo punto invece lei lo vedeva arrivare e gli diceva, go the F to sleep daddy, vai tu a dormire, cavolo papà. È un po' più forte di cavolo, ma insomma abbiamo capito che questa era la parola incriminata, perlomeno la traduzione possibile di questa parola incriminata, di questo libro che ha fatto discutere, però anche ha fatto molto divertire negli Stati Uniti. Non so se arriverà anche in Italia, perché essendo un po' una filastrocca in rima, non è tanto facile da tradurre. È una bella sfida tradurre questo libro di Adam Mansbach, che ha fatto tanto discutere, del quale abbiamo voluto parlare in questo appuntamento di English 24. E su Facebook possiamo mettere il link per sentire Samuel Jackson che lo legge. Straordinario, così ricordiamo anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato di iscriversi alla nostra pagina Facebook, ma anche di correre in edicola per il nuovo numero di English 24. Ringrazio anche Mauro De Angeli in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.